Dario Ricci. Pozzo incita gli azzurri ed anche la folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reti di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. Ecco Meazza a scattare, supera la metà campo. Avanza ancora, tira verso Guaita, spuntato al centro. Scattano la finale, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, in suo incontro a Schiavi. Schiavio lo supera, entra in aria, il solo tiro, rete. La ripresa si inizia con il vantaggio di 3-1 per l'Italia. Ora gli ungheresi moltiplicano gli sforzi per recuperare il distacco, riuscendo dopo numerose azioni offensive a ottenere il secondo punto. Ma gli azzurri ritrovano in un finale magnifico il loro slancio combattivo e segnano ancora poco dopo con un tiro imparabile di Colaussi. Quando si andava in campo erano fischi e urli, ma più che altro erano la faccenda politica, non per noi giocatori, era una questione politica. E forse a noi quello ci entusiasmava di più. Voci e cronache che arrivano da lontano, tra il 1934 e il 38, un quadriennio in cui l'Italia del calcio, sotto la guida del leggendario Vittorio Pozzo, conquista due titoli mondiali consecutivi, inframmezzati dall'oro olimpico di Berlino 1936. Trionfi del calcio e trionfi del fascismo, vien da dire, perché sport e politica, come ben sappiamo qui a Olimpia e come ci ha ricordato la testimonianza di Aldo Olivieri, il portiere iridato in Francia nel 1938, sono sempre intrecciati fra loro. Di fatto quella che il calcio italiano giocherà da quei giorni fino al secondo dopoguerra sarà la sua partita più difficile e complessa. Pro o contro il regime, quindi pro o contro il duce, proprio lui, Benito Mussolini, che come vedremo tra poco di calcio poi non è che fosse poi così appassionato. Ne parliamo col nostro primo ospite, ex calciatore delle giovanili della Juventus, tra l'altro, oggi saggista e autore per Newton Compton del libro Sfida per la vittoria, la straordinaria storia del calcio italiano durante la guerra e il fascismo. Renato Tavella, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera, grazie a voi. Renato, toglimi subito una curiosità a proposito di Mussolini. Al di là della propaganda, qual era il suo rapporto con il calcio? Certo che non disdegnava l'attenzione per il calcio, proprio per come hai detto tu, ecco, i due campionati del mondo, il 34 e il 38. Ricorderei le Olimpiadi del 36, avevano fatto assurgere il nostro movimento calcistico alle più alte vette. Naturalmente il regime andava a nozze con queste cose, per cui la propaganda intorno a questi risultati era tantissima, enorme. Però di lì a parlare di passione calcistica ce ne vuole. Piuttosto il duce amava andare a cavallo, giocava a Maluccio a tennis, ecco, questo sì, con Manzeglio, che era stato a sua volta due volte campione del mondo, era ex giocatore anche di Bologna e Roma, poi direttore sportivo della Roma, il quale Manzeglio dava lezioni di tennis in privato a Villa Torlonia al duce. Queste sono tutte cose che possiamo sicuramente sottoscrivere, perché sono testimoniate, questo sì, però appunto credo che in fondo al duce non è che interessasse molto, ecco, la pedata. Ma il duce era laziale o romanista? Non era affatto fervido romanista, semmai era piuttosto laziale per via dei figli. I figli stravedevano per Silvio Piola, che all'epoca per davvero era un campionissimo ed era il centroattacco della Lazio. Anzi, mi ha confidato la figlia di Piola proprio nel corso delle mie ricerche, che è accaduto anche che andassero a caccia assieme. Ecco, i figli di Mussolini con Piola Piola, perché Piola era un accanito cacciatore e peraltro aveva due passioni, aveva la caccia e aveva il ballo, perché amava tantissimo ballare, ecco, naturalmente amava il calcio, ecco, e per questo lo ricordiamo. Però la famiglia Mussolini era vicina alle due squadre romane sicuramente, un pochino di più alla Lazio, ma anche al Bologna, non dimentichiamo il Bologna, perché i figli di Mussolini giocavano d'estate al calcio con tutti i campioni del Bologna, ad Alba di Riccione, a Rimini, insomma. E il calcio e un calciatore, se non sbaglio, sono in qualche modo protagonisti anche degli ultimi giorni di Mussolini, vero? Tale Michele Moretti, questo era il suo autentico nome, era un partigiano comasco, anzi era commissario politico delle Brigate Garibaldi, le quali hanno catturato il Duce a Dongo, e Michele Moretti è sempre presente sulla scena quando viene ammazzato il Duce e con Claretta Petacci. E cosa accadde? Erano in tre, secondo la narrazione, la vulgata popolare. Colui il quale doveva sparare al Duce, ad un certo punto preme il grilletto e il suo Thompson mitra si inceppa. Chiede un'altra arma e, sempre secondo la vulgata, quest'arma, che era un altro mitra MAS di fabbricazione francese, viene fornita da Michele Moretti. E vulgata vuole che Audisio, colui che era deputato ad uccidere materialmente il Duce, avesse poi fatto fuoco con questo MAS. In verità sembrerebbe proprio che al momento in cui si è inceppato il Thompson di Audisio, Moretti nella foga abbia fatto che premere lui il grilletto del suo MAS sia stato lui ad uccidere il Duce e Claretta Petacci. Ecco, e il calcio cosa c'entra con questa drammatica vicenda? Michele Moretti era stato anni prima, neanche troppi, negli anni 30, un calciatore del Como, che all'epoca si chiamava Comense, e nel suo ruolino di atleta, di calciatore, vanta ben 165 presenze in Serie B e una partita d'allenamento addirittura con la nazionale di Vittorio Pozzo. Era un calciatore a tutto tondo. Terminata l'attività, si era iscritto al Partito Comunista clandestino. Questo però, attenzione, non è un partigiano, come si suol dire, dell'ultima ora. Lui già alla fine degli anni 30 era in clandestinità col Partito Comunista e di lì poi si è ritrovato ad essere commissario politico delle Brigate Garibaldi, che hanno poi catturato il Duce lì a Dongo. Poca resistenza, tranne vicino Gela. Attaccammo dove i tedeschi credevano che l'acqua fosse troppo bassa. Riuscimmo a sbarcare con l'aiuto di ponti galleggianti. Floating causeways, an ingenious method of bridging from ship to shore, made the landings possible. I ponti si rivelarono un successo. Un passo indietro facciamo, Renato Tavella, per sottolineare anche che in Italia a calcio si giocò finché possibile durante la Seconda Guerra Mondiale. A pochi giorni dallo sbarco americano in Sicilia nel luglio del 43, ad esempio, viene assegnata la Coppa Barbesino. Di che si tratta, Renato? Barbesino era stato a suo tempo un calciatore del capitano del Casale, mitico, che aveva vinto lo scudetto, dopodiché era passato ad allenare e era anche stato uno squadrista fascista. Insomma, viene richiamato in guerra nel 39, lui era un ufficiale pilota aeronautico e in un volo verso la Libia si disperde in volo, insomma, e muore. Sicché la Federcalcio è pensa di destinare subito e ricordarlo con un torneo altisonante, con la Coppa Barbesino. Questo torneo vedeva di fronte il fiorfiore del calcio italiano, con le stellette però, perché c'era chi giocava tra gli automobilisti e vari componenti, vari comandi di presidio. E insomma, questa la possiamo ritenere per davvero la coppa più importante, sempre tra virgolette, tra i calciatori con le stellette, e proprio alla vigilia dello sbarco degli americani. E questo è un altro fatto un tantino inconsueto. Mentre il mondo era in fiamme, noi si pensava in Italia a quel tempo a giocare al calcio. Ecco, forse Renato, è proprio questa voglia di calcio a essere un comune denominatore sportivo in quegli anni tragici. Non dimenticherei che negli anni più tempestosi, dal 43 al 45, la Federcalcio era spaccata in due: al nord quella ufficiale, che era sotto la Repubblica Sociale Italiana, ha veduto bene addirittura di imbastire, io amo usare questo termine, una sorta di campionato, che è quello poi ricordato negli annali, vinto dai Vigili del Fuoco di La Spezia. Pensiamo un po' che erano iscritte a questa sorta di campionato, e sottolineo sorta, ben 65 formazioni, per cui incredibile, sotto i bombardamenti, i rastrellamenti, giocavano al calcio e c'era questo campionato. Dopodiché nell'altra metà d'Italia, quella via via già liberata dagli alleati, pullulavano per davvero i vari tornei, perché la voglia di calcio c'è sempre stata, insomma, nella nostra penisola, che il calcio esiste. Renato Tavella, grazie per il tuo Sfida per la Vittoria, edito da Newton Compton, e grazie soprattutto per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Io ti ringrazio molto e ringrazio naturalmente Olimpia, città dello sport. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Olimpia. Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude, ed allora le immagino nude aspettare. Pro o contro il Duce, la partita giocata dal calcio italiano tra il ventennio e il secondo dopoguerra. È il sentiero storico che stiamo ripercorrendo oggi qui a Olimpia. Nella prima parte con Renato Tavella, scrittore e saggista che ha approfondito storie e personaggi proprio del periodo fra le due guerre, e ora con Enrico Landoni, a sua volta scrittore, saggista, storico e membro della Società Italiana della Storia dello Sport. Ben ritrovato a Olimpia, professor Landoni. Ciao Dario, un caro saluto a chi ci ascolta. Ecco professore, le chiedo che cosa rappresentava il calciatore per il fascismo. Con una espressione efficace mi verrebbe da dire il miglior ambasciatore del fascismo nel mondo, in Italia e nel mondo. Doveva essere naturalmente l'incarnazione dei valori più cari al fascismo, e direi su tutti la mascolinità, quindi la virilità, la mascolinità, e comunque anche l'allineamento politico, no? Ai valori, al paradigma, al modello dell'uomo nuovo forgiato dal fascismo. E in questo quadro evidentemente sul piano propagandistico il calciatore rappresentava un veicolo eccezionale, un fattore di promozione straordinariamente importante. E quale fu il rapporto tra il mondo del calcio e il regime, e quale con lo sport in generale? In linea di massima vi fu una diciamo adesione formale inevitabile, nel senso che inevitabilmente vi era un'adesione formale. In molti casi vi era anche un'adesione sostanziale, vi era la convinzione che comunque quello rappresentasse un modello ideale importante da sostenere e per il quale, come dire, nutrire un particolare orgoglio. Diciamo che forse non fu tanto il calcio, sebbene si trovino delle eccezioni, furono forse altri di sport tra le cui file, all'interno dei quali noi possiamo trovare dei casi di tutt'altro che preciso allineamento sulle posizioni del regime. Obiettivamente il calcio fu tra gli sport quello che espresse modo probabilmente più convincente e forte un'adesione sicuramente formale e per certi versi anche sostanziale ai valori del regime. Per altri sport dobbiamo fare certamente più attenzione e essere molto cauti con dei distinguo particolari. Io penso al ciclismo e penso naturalmente al caso di Bartali su tutti, che era tutt'altro che isolato. E peraltro il fascismo sapeva che il ciclismo presentava al suo interno delle problematiche, degli aspetti di non totale allineamento sul piano valoriale, sul piano politico. Dicevamo, calciatori non allineati ve ne furono, appunto? Naturalmente non mancarono i casi di diciamo i casi problematici, ma certamente il caso degli allenatori Arpad Weiss, Erfstein, tutto il problema inerente alla come dire al patto d'acciaio siglato con Hitler e all'adesione del fascismo piena alla politica razziale del nazismo determinò uno sconquasso anche a livello calcistico e in questo caso la dipartita, insomma il forzato addio di Arpad Weiss, di Erstein, insomma determinò tutta una serie di conseguenze pesanti all'interno del mondo del calcio. Punto di congiunzione tra prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale è il Grande Torino, che monopolizza quegli anni prima del conflitto e fino alla tragedia di Superga del maggio del 1949. Che rapporto aveva quella squadra con la politica, professor Landoni? Il Torino è una squadra modello, è un punto di riferimento fondamentale e se la vogliamo buttare, diciamo, in politica con un riferimento politico, certamente i vertici del Torino giocarono un ruolo importante nel, da un lato, garantire un'adesione a quelli che erano i valori fondamentali del fascismo, ma nello stesso tempo sul piano umano, sul piano dei valori umani, noi possiamo dire che certamente tanto e positivo fu il contributo svolto dai vertici del Torino per consentire per esempio a una figura come Erstein di riparare all'estero, di provare a trovare una soluzione alla propria dimensione personale e familiare in conseguenza dell'entrata in vigore delle leggi razziali e di tutto quello che comportava sul piano esistenziale una simile decisione. I vertici del Torino furono formalmente legati alla contingenza politica e al regime di quel momento, ma giocarono un ruolo importantissimo sul piano dei valori, sul piano della persona e sul piano diciamo anche della cifra tecnica espressa. Il Torino è certamente un punto di riferimento di grande rilievo per gli appassionati e per questa, diciamo, per questo carattere eclettico, potremmo dire, di valori che incarna la formale adesione al regime, ma nello stesso tempo la centralità della persona umana, il grande rispetto della dimensione umana e la cifra tecnica straordinariamente rivoluzionaria, moderna, di grande prestigio, che poi nell'immediato secondo dopoguerra avrebbe poi portato alla sua massima espressione. Professore, non furono pochi poi i calciatori che confluirono nelle file della resistenza. Diciamo che una figura che potremmo già definire afascista, comunque particolare all'interno di quella transizione delicatissima tra fascismo e postfascismo, per esempio un nome tra gli altri è Bruno Neri, no? Calciatore sempre del Torino. La figura di Bruno Neri è particolare a questo livello, ma naturalmente poi furono diversi i calciatori che in qualche modo si diedero alla macchia e scelsero convintamente, no, la strada della resistenza. Dunque questo è sicuramente un aspetto interessante. Quindi ci sono queste figure di giocatori che svolsero comunque, no, un ruolo politico in qualche modo, un ruolo attivo, decisero di darsi la macchia, decisero di aderire alla causa partigiana, la lotta di liberazione, e vi furono dei calciatori che pagarono un prezzo, diciamo, pesantissimo. Io penso per esempio anche a Ferdinando Valletti, no, dell'epoca del Milano, che fu mandato a morire nel campo di sterminio di Mauthausen. Ma lo stesso per esempio Piola, naturalmente simbolo, no, del regime, fu in qualche modo anche lui diciamo condizionato dalle vicende della caduta del fascismo, si trovava in Piemonte, non poteva rientrare a Roma e non riusciva a mettersi in contatto naturalmente con i suoi dirigenti, i suoi riferimenti della capitale, e venne provvisoriamente ingaggiato dal Torino e anche in qualche modo assunto all'interno dell'universo Fiat per quella contingenza difficilissima, no? dell'immediato periodo successivo alla caduta di Mussolini. Dunque la politica si sovrappone in un modo particolarmente interessante con le vicende calcistiche e sportive. E nel secondo dopoguerra cosa rimane, cosa sopravvive dello sport fascista o diciamo così fascistizzato? Secondo le intenzioni dei partiti antifascisti, penso soprattutto del Partito Socialista, tutto quel modello organizzativo che aveva al suo centro il Comitato Olimpico Nazionale doveva essere eliminato, distrutto. Onesti venne chiamato da Pietro Nenni come commissario liquidatore del CONI, ma Onesti fece esattamente il contrario. Onesti disse in modo molto chiaro che l'eliminazione di tutta quella struttura tecnica, organizzativa, istituzionale che aveva rappresentato un modello importante per il movimento sportivo italiano non poteva essere eliminato, pena la sostanziale scomparsa dall'universo sportivo internazionale del nostro paese, dell'organizzazione sportiva italiana. Dunque a parole e negli obiettivi discontinuità, ma nei fatti assoluta continuità anche nei nomi dei grandi dirigenti. Penso uno tra gli altri a Ottorino Barassi, che durante gli anni del fascismo svolse un ruolo importantissimo, noi lo ritroviamo nei ranghi federali della FIGC con un ruolo importantissimo. Quindi c'è una sostanziale continuità, mi sta dicendo. La cesura si avverte sul piano culturale, cioè chiaramente il fatto che il fascismo avesse utilizzato lo sport come veicolo di propaganda, all'interno della cultura, diciamo, dei partiti antifascisti giocò un ruolo negativo, tant'è vero che di sport sul piano culturale non si poteva sostanzialmente parlare più di tanto. Lo sport è sempre stato considerato, come dire, un qualcosa di poco conveniente, poco utile, poco importante, di cui anche a livello scolastico, educativo, lo scarso rilievo a torto attribuito alla educazione fisica, alla preparazione ginnico-sportiva delle nuove generazioni. Dunque allo sport si è sempre guardato, no, un po' con questo sospetto. È un prezzo che il nostro paese paga ancora oggi sul piano della cultura sportiva. Enrico Landoni, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie mille, ciao Dario, ciao a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.